sei dentro me e mi fai compagnia e mi sorridi e mi mostri la via, via dal tempo e dai guai. Tuo amore, adesso che fai? Vita, la vita così. Essere dove ora.